che saluta solo con i guanti. E qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Ciao a tutti, io sono Domenico e con me c'è anche Gloria. Ciao a tutti ragazzi, è un piacere essere qui. E vi parleremo del nostro progetto indipendente che si chiama La Meula. Allora, inizierò io a raccontarvi un attimino di come è nato questo progetto e poi interverrà anche Gloria più avanti. Allora, La Meula, il nome nasce da appunto La Meula, che sarebbe la betulla in dialetto brianzolo. È un'idea che è venuta al nostro brainstormer che si chiama Alessandro Vanossi, che salutiamo. E sarebbe una rivista, almeno nasce come rivista cartacea, per far vedere quali sono le individualità forti all'interno del nostro territorio, che noi apprezziamo ma che pensiamo che determinate volte non sia valorizzato come merita, proprio dalle persone che abitano qui all'interno di questa zona dell'Alta Brianza. Principalmente noi siamo di Erba, ma molti nostri collaboratori sono anche delle zone di Lecco e Como. Non viene visto anche per le potenzialità che ha dalle persone che abitano non solo in Brianza ma anche fuori. Allora abbiamo detto: perché non far vedere che cosa abbiamo? Noi siamo delle persone che principalmente studiano a Milano e vediamo che sono moltissime in quella zona le riviste indipendenti, che secondo me hanno anche dei contenuti minori rispetto a quelli che abbiamo noi, perché in quella zona c'è una sorta di sovraesposizione ed è una... Sono in tanti ormai a parlare poi lì. Esatto, è una vetrina gigantesca Milano, però si rubano i contenuti tra di loro, mentre nella nostra zona... No, esatto, era quello, l'idea è stata all'inizio di cercare di portare un format che già funzionava a Milano e portarlo anche qui. Come già Domenico diceva, di contenuti ne abbiamo trovati parecchi. Al momento siamo usciti con il primo numero qualche mese fa, ma l'idea era quella di fare una rivista che uscisse almeno due volte all'anno, però stiamo lavorando per farne uscire una l'anno al momento. Sì, perché anche se abbiamo la possibilità di farlo, ci stiamo concentrando su altri progetti, perché vediamo che ha avuto una bellissima risposta, ci sono tante persone che ci stanno appoggiando per quanto riguarda il nostro progetto. Allora abbiamo pensato: perché non ampliarsi e cercare di fare qualcosa anche online? Qualcosa anche online, esattamente. E qui nasce il progetto grazie al terzo membro, che è da poco è entrato in squadra. E Giulia. Esatto, lei aveva questo sogno di poter parlare di più di arte che c'è in questa zona, di nuovi artisti. E questo bisogno anche di comunicare che c'è qualcosa di interessante anche a livello visivo, musicale, da andare a scoprire. E non ci vogliamo fermare naturalmente solo lì, però ecco, ha dato questa carica in più per creare qualcosa di nuovo. Infatti noi vi consigliamo di iniziare a seguire i nostri social sia su Facebook che su Instagram. Ci chiamiamo appunto La Meula, stiamo preparando il sito online per partire il più presto possibile e appunto tra poco ci serviranno anche degli scrittori, stiamo reclutando scout per trovare qualcosa di cui parlare. Come abbiamo già detto, c'è tantissimo qui e ci piacerebbe che le persone potessero parlare del loro punto di vista di quello che tutti i giorni vivono, sia nel bello che nel brutto, però trovare il fascino che non sta soltanto alla vecchia Como, alla Como, la Brianza che tutti vedono in TV, che è quella del lago, basta. Non solo il lago, perché comunque è bellissimo quello che c'è dal punto di vista paesaggistico e tutti lo sappiamo, lo vediamo tutti i giorni, però anche dal punto di vista culturale è molto importante. È importante anche non fermarsi al solo culturale. Esatto, è che noi diamo molto per scontato quello che vediamo tutti i giorni e quindi vogliamo portare anche nuovi talenti diversi. Esatto. Che può essere anche quello che è l'artigiano, piuttosto che anche un imprenditore che ha un'azienda che di successo, esatto, sta facendo un ottimo lavoro nel suo campo. E comunque siamo molto felici di essere qua, perché in realtà stiamo lavorando bene. L'idea è nata più di un anno fa, però anche se non stiamo andando veloci, perché ci interessava fare le cose fatte bene, molto bene. Però piano piano stiamo avendo consensi, probabilmente anche perché non è uno di quei progetti che è nato, diciamo, da menti da teenager, da troppo giovani. Quindi abbiamo visto un po' gli errori che si potevano anche commettere. Anche perché noi abbiamo fatto i nostri errori con i nostri progetti. Sì, esatto. Passati. Quindi sappiamo ora più o meno cosa si va incontro, ecco. Esatto. E niente, io parlerei un attimo anche di ciò che abbiamo già fatto, perché può dare un'idea anche di quello che cerchiamo. Allora, innanzitutto vorrei parlare della rivista cartacea che abbiamo fatto, e nella rivista cartacea noi prendevamo a modello delle persone che conoscevamo personalmente. Esatto, sì. Non siamo andati molto lontano, siamo andati nella nostra cerchia di amici e più sulle erbese, esatto. Però siamo riusciti a creare comunque un bel team. Assolutamente, anche perché il primo numero l'abbiamo voluto improntare come qualcosa, non so se conoscete i famosi diari erbese, comunque questi libricini che escono soprattutto nel periodo delle vacanze di Natale, dove sono con le poesie in dialetto. E volevamo invece portare qualcosa di diverso, cioè bellissimo, stupendo parlare della vecchia erba di fine 800, bellissimo parlare dell'erba dell'epoca fascista, ma volevamo portare quello che c'è adesso, ora. Esatto, quello che c'è ora. E un esempio poteva essere ad esempio una ragazza di cui abbiamo parlato che si chiama Andrea, che è una ragazza che ha cantato alla Scala. Un talento incredibile, ragazza, tra l'altro adesso bellissima. Studia conservatorio a Como proprio. Cantante lirica lei. Sì, cantante lirica. Incredibile, e sembrava assurdo che in un posto come il nostro ci fosse un talento del genere, cioè è scappato a tutti. Oppure Edoardo Maspero, che è un ragazzo che è un mio caro amico, che ha scritto un libro davvero molto interessante che si chiama Nero Catrame, e lui è di Fusiano e ha studiato alle superiori a Como e attualmente si è da poco laureato in cattolica. Esatto, classe 94, ha avuto un discreto successo con il suo libro. Mi pare che stia lavorando su una seconda edizione del suo libro e che il suo libro sia stato anche tradotto in un'altra lingua, francese. E questa è una chicca che non tanti sanno: Sgarbi ha comprato e letto il suo libro. Esatto. E ha fatto anche un'ospitata a Canale 5 un po' di tempo fa. Ha fatto un ottimo lavoro, anche perché era un romanzo un po' di denuncia di quello che succedeva. Sì, molto ispirato per chi conoscesse il genere agli americani, Bret Easton Ellis principalmente. Lo consigliamo comunque. Io lo consiglio. Potrebbe molto interessare, anche perché è naturalmente una persona delle nostre zone. Poi abbiamo parlato del canile di erba. Assolutamente. Persona di Doriano Torchio, che è attualmente tra l'altro anche consigliere comunale a Erba, con la sua lista civica che ha preso circa l'11%. Quindi non ci siamo fermati soltanto a una cerchia di giovani, ecco. No, assolutamente. Torchio è storico, un pilastro storico della nostra città. Non siamo tra l'altro riusciti a consegnargli ancora il numero zero, la prima rivista che abbiamo fatto, perché Doriano non ha cellulare. Però lo puoi incontrare quando vuoi, vederlo tutti i giorni, perché tutti i giorni è a piedi per erba che cammina in centro. Un personaggio molto molto particolare, però assolutamente di stima. E abbiamo fatto un servizio fotografico molto interessante lì. Sì. Perché abbiamo voluto riprenderlo durante la giornata dedicata proprio alla festa del canile di erba, del Bastardino, che è l'associazione. Sì, la festa che si è tenuta a Merone, in questo caso. È stata molto molto bello, molto bella quella tra giornata. Doriano, consigliamo di andare quest'anno, tra l'altro, sarà il mese di maggio. E volevamo dire anche che Doriano è stato uno degli elementi più particolari, perché noi abbiamo creato un team di fotografi e stilisti, perché abbiamo curato lo stile di ogni persona. Ma Doriano è talmente spontaneo che abbiamo deciso di lasciarlo così com'era, di riprenderlo nel suo habitat naturale. Abbiamo voluto fare i lavori fatti per bene, come per il numero zero. Abbiamo detto, per le competenze che avevamo, qualcuno di noi già aveva già lavorato da qualche anno a Milano, comunque con le conoscenze che avevamo appreso, abbiamo detto ok, abbiamo i fotografi. Fotografi nella zona, molto bravi: Riccardo Contigia, Loris Biotti, Gianluca Morini, molti. L'aiuto che ci hanno dato anche i ragazzi di Lecco. I ragazzi di Lecco della We4 Agency, esattamente, principalmente nella figura di Samuele Sala. Abbiamo cercato anche le stylist, e abbiamo anche le quote cinesi, abbiamo avuto la stylist incredibile, questa ragazza che da 4 anni abita a Milano, adesso è tornata con a Pechino, un nome impronunciabile, Zuchuan. Salutiamo Anna. Sì, per gli amici Anna. Esatto, andremo presto. Tra l'altro è anche una pasticcera eccezionale. Sì, lo sapevo. Incredibile. E quindi abbiamo fatto anche un mix col suo stile, ha portato un po' di oriente anche da noi. Abbiamo, ecco, per Relocation abbiamo scelto dei posti particolari che non tutti conoscevano. Siamo andati alle Due Torrette, a Erba, villa medievale. Sì. Con il suo parco, però abbiamo fatto tutto quanto solitamente all'interno. Viene affittata anche per matrimoni e ricevimenti. Sì, sì, c'è anche un bed and breakfast all'interno. E poi la chiesetta, quella dell'eremo. No, no, eravamo all'Alpe del Vicere. All'Alpe del Vicere, sì. La chiesetta degli anni 70, squisita, qualcosa che veramente non ti aspetti di vedere. E poi abbiamo parlato anche dell'Opificio Zappa, che è questa realtà culturale nata come associazione a Erba, sempre. E abbiamo parlato della sua nascita, creata suo posto, appunto, esatto, da Enrico Zappa. Sì, nonno dei ed fratelli. È gestita insieme a suo fratello Giorgio Zappa. E la presidentessa, la fidanzata. Sembra, no, è tutto in famiglia. Tutto in famiglia, ma hanno tra l'altro, loro vivono lì, hanno questa. Era una vecchia filanga, giusto? Ad esempio, il venerdì sera fanno le jam session, che era qualcosa che Erba non esisteva. No, non esisteva nulla del genere. Magari già che di Como, Lecco, qualcosa già mastica di queste, però. Secondo noi c'è un ambiente stimolante nella nostra zona, ma che non è mai stato valorizzato appieno. Ecco, e ci piacerebbe trovare. Ecco, il nostro progetto, prima di tutto, vuole cercare di mettere insieme un gruppo di persone che sì, loro ha molto molto talento e ha voglia di parlare e di condividerlo, però ognuno è bravo nella sua parte. E noi cerchiamo di mettere tutti questi, esatto, talenti insieme. Anche il contenitore La Beula, che andrà poi sul web. Noi avremmo voluto parlare di qualunque cosa, anche di barbabietri, di patate, sì. No, abbiamo deciso invece di dare il progetto anche a chi vorrà collaborare con noi, che è quello di parlare e di trovare cose interessanti sulla nostra zona e di niente. È tutto qua, volevamo semplicemente presentarvi il nostro progetto e dirvi che se avete interesse cercateci, contattateci. Qualunque età. Qualunque età, assolutamente. Anche se siete delle persone che vogliono soltanto scrivere per noi, presentarsi soltanto ai nostri eventi che organizzeremo sempre di più sul territorio, e se volete acquistare la nostra rivista, che ci aiuta principalmente per rientrare nei costi, anche perché non ci sono questi grossi guadagni in questo campo. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, il prossimo appuntamento ce l'abbiamo a Erba? A Erba, sì, sarà mercoledì 17, mi dicono dalla regia, 17 aprile, faremo la presentazione alla libreria Via Volta. Non l'abbiamo ancora presentato ufficialmente all'Erbese. C'è stata sì una festa, sì, proprio, sì, sì, intima tra amici. Noi li chiamiamo la Beula Party, che sono delle feste nelle quali vendiamo la nostra rivista senza fare nessuna presentazione, soltanto creando un ambiente confortevole. E niente, direi che ci siamo dilungati anche abbastanza. È stato un piacere. Vi salutiamo e speriamo di essere seguiti nel nostro progetto, che speriamo andrà avanti per molto. Assolutamente. A presto. A presto. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.